ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Buonasera amici, simpatici amici, terza puntata di Piazza Alta, questa ormai è la sigla che vi tiene compagnia tutti i giovedì sera a partire dalle 22. Saluto subito i miei compagni di viaggio, alla mia destra Marzi, come saluta. Potete vedere sul vostro teleschermo, e alla mia sinistra Enzino. Che bello avervi qui tra le nostre braccia, amori. Citazione. Ciao simpatici amici. Simpatici. Accanto a noi, alla parte tecnica e registica, Simone. Ciao Simone. Bravo, così si fa. Abbiamo studiato tutta la settimana, per che bravi, che bravi. Sono orgogliosa di voi. Adesso vi sentiremo, ma intanto salutiamo subito chi ci ascolta. Innanzitutto sulle frequenze 101.2, in streaming dal sito www.radiof.it. Chi ci ascolta dal cellulare, perché ha scaricato la nostra applicazione. E noi gli consigliamo di ascoltarci tramite le cuffie, perché suono sarà migliore e ci sentiranno più vicino a loro, dentro di loro. Io volevo salutare anche chi ci ascolta da fuori la finestra. Perché qualcuno ci sentirà. Ma ci sono rimasti tanti amici di Facebook che hanno messo i mi piace sulla nostra pagina. Un salutone. Quanti sono, Enzino? Guardate, quanti sono? Siamo quasi 200. Voi avete pigiato il mi piace, ma voi piacete anche a noi. Non piangere sembrasse tutto vero, se ti sembrasse tutto nero come il mondo intorno è, se ti sembrasse tutto vero, se ti sembrasse tutto vero come il mondo adesso è. E questa era la ballata delle ossa. Abbiamo cominciato con i tre allegri ragazzi morti. Vietato fare battute. Vabbè, allora andiamo via. Dal 1976. Ma non so se avete... No, va, sì. È un crescendo. Io, guarda, ho sì. molta fiducia in Simone, nella sua selezione musicale. Prego. Prego, prego. No, perché Marzi, di che sei scontro... invidioso della ballata delle ossa. Sì, io lo so. Sì, perché io in perché effetti lui... di ossa le ho ben ricoperte. Pelle ossa quindi... era tanto tempo fa. Tanto. Nei pensieri stavo di mia pensando madre. A proposito sì. di questo, com'è bello. Perché magari durante il giorno mal di testa, nevralgia, e invece a quest'ora sì. passa tutto, bellissimo. Sarà sì. questo effetto anestetico di questo programma fantastico che si chiama? Piazzalta. E anche del luogo. Voglio dire, siamo in pieno centro storico di Foiano, in effetti, ma Marci non c'è niente in da effetti dire. Marci non riesce a prendere la parola, dovrò studiare un programma solo per solo me. Tu sì, ma dicevamo Piazzalta sì. che si chiama così perché provate a indovinare, dite voi perché si chiama Piazzalta. Piazzalta. Ah no, però aspetta, vero, dobbiamo salutare tanta gente che questa sera, tanti amici che stasera da dove? Ci seguono. Da dove? E per esempio, sapete che questo è il paese del carnevale, i cantieri del carnevale stanno alacremente lavorando, che tanto lustro donano al a questo paese. A tutto e dobbiamo quindi salutare perché ci stanno ascoltando. Certo. Io guarda un cantiere a caso saluto quei splendidi del cantiere di Bombolo, saluto io. Perfetto, io allora saluto il cantiere degli azzurri perché così è pandan con il mio microfono, le cuffie, la sciarpina. Io invece saluto il rustico cantiere, i simpatici amici di Nottambuli. Oh, come l'hai detto bene, amici. Perfetto, e invece chi è rimasto, ragazzi? Non facciamo però differenze, subito. No, sono tutti così, e quattro. Vogliamo salutare anche tutti? Il comitato del carnevale e a questo punto abbiamo salutato tutti. Siamo a posto. Del presidente, quindi. Ricordo certo. che dovete seguire questo programma anche tramite le nostre pubblicazioni sulla pagina Facebook Piazzalta, perché stasera per la prima volta faremo un esperimento interattivo. Perfetto. Parleremo e pubblicheremo e parleremo. Già pubblicato, perché ovviamente. Tu hai già messo la prima foto, bellissima. Il sino. Grazie. E io ovviamente sono quella al centro in versione certo. maschile, e gli altri due ballato sono mi sono, Enzino mi sono e capitati loro. Il comunque, quarto uomo è Simone, non si vede in non questa si foto. Vede. È vero, no, Simone. Però c'è. Okay. È impegnatissimo alla regia e comunque la foto era per dirvi che noi vi scalderemo, no, per questa Simone sera. È un periodo molto delicato. Marzi, adesso non divagare in altre cose. Il periodo natalizio per lui è deleterio. Che sta carine le luci azzurre sì, sta guardando, sì. che hanno messo lungo sta il guardando viale. Le luci del mixer e non capisce. Di che cosa parliamo questa sera, cari amici da casa? Come diceva Leopardi del nulla eterno. Ma perché fa così? Ma perché lui Marzi, ha due abbiamo nozioni. Detto che dobbiamo essere carini, sì. dobbiamo tenere compagnia alle persone, dobbiamo sì. scaldare questa serata fredda. Cambia citazione, su. Che ore sono? Scusa, che ore sono? Ah, dobbiamo non sì. sono ancora le 11, timer, siamo timer. In fascia no, protetta, non sono posso. Passati soltanto 9 minuti. Allora, sono dici Sara, dici di stasera di che cosa ci farai, su che cosa ci interrogherai, perché allora, ricordiamo come funziona. Sì, funziona così, che questo Piazzalta è un programma per far fare agli ascoltatori un viaggio attraverso Foiano. Io e vengo da fuori. Male, eh? Non capite male perché viaggi qui sì. No, questo lo capisci no, male non solo siamo, te non Marzi siamo un'agenzia e, di viaggi. E quindi no, non siamo un'agenzia di viaggi. Però vi porteremo in giro per Foiano attraverso che cosa? Gli aneddoti, i racconti, le storie e i personaggi. Però questa sera partiamo dai luoghi. Oh yeah. Sì. Partiamo da cioè? Posso cioè? Andare avanti io? No, te non, in teoria non no. sai l'argomento. No, okay. non lo sai. Quindi questa sera, allora, visto che il nostro programma si chiama Piazzalta, questa sera parleremo delle piazze di Foiano. Oh! La so, questa la so. E a tal proposito, siccome Sara ci farà delle domande, noi dovremo rispondere. Ma come potremo intervenire? Azionando i nostri pulsanti. Pulsanti, aspetta Marzi, aspetta. Questo è il pulsante di Enzino. Questo invece è il pulsante di Marzi. Ecco, la dice lunga. Sono tra l'altro amici amici, perché Marci se lo sta proprio spupazzando il suo pulsante. Allora, io direi che siamo a posto. Abbiamo... Direi che abbiamo presentato benissimo. Più o meno benissimo. E poi dopo parleremo anche dell'abbigliamento di Marci. Ma questo, sì, questo lo lasciamo per ultimo, perché altrimenti ci giochiamo tutti gli ascoltatori. Argomento carnascialesco. Ovviamente i nostri ascoltatori possono interagire con noi attraverso la pagina Facebook. Quindi scriveteci, commentate, e suonate, date il spunti. A Piazza se qualcosa Alta. Non vi piace, è colpa di Marci. Sempre, sempre di Marci. Musica. Sai che me ne frega. E sono vuoto, gli ideali li ho lasciati a casa. Quasi quasi finalmente inizio a dire quel che penso. E sono sempre meno accomodante, tanto meno tollerante. Mi ritiro nel mio buco e vi saluto. Fatto, resto al buio nel mio letto, faccio colazione qui. Dimmi tu qual è la differenza tra me e te. Farei pure mille cose, ma dimentichi il perché. Paletti, paletti, non quelli che direi mettiamo. Che con questa canzone di fronte... Viaggio sicuramente sì, è iniziato. Ma non ho neanche detto il titolo della canzone, Marci. Scusami, per prego, favore. Prego, prego. Da quando allora... ho messo a posto il microfono ha un altro verbo. Adesso gli risolvo io questa cosa. Ci penso io. La vita in modo diverso. Dimmi. Da un blò. Allora, la canzone era Il Geco di Pietro Paletti, bassista e voce dei The Arts. Sì, ma non mi ci soffermerei. Signori, benvenuti a bordo del volo Piazza Alta della compagnia Radio F. Ci vi pare il comandante Ziro, che assieme al suo copilota Marzia, l'hostess Sara e l'ingegnere di bordo Simone, che più di un ingegnere di bordo è un architetto di bordo, vi danno appunto il benvenuto a bordo. Il nostro volo avrà la durata di un'ora, la temperatura variabile dipende da dove ci state ascoltando. Durante il nostro volo i membri del nostro equipaggio vi sollazzeranno offrendovi spremute di conoscenza e soprattutto per dissetarvi e stuzzichini di consapevolezza per diffamarvi. C'erano molte cose. Il nostro comandante, sì, il nostro comandante adesso lo lasciamo pilotare l'aereo. Non capisco allora queste interferenze. Sì, le torniamo piazze, a noi, torniamo a noi. Marzi, sono io che devo fare le domande. Vi domanderete perché. Rilassati. Anche noi, l'abbiamo detto. Perché le piazze? Perché adesso iniziamo a muoverci nei luoghi fondamentali di Foiano. Le piazze sono da sempre il luogo di ritrovo. No, te no, Marzi. Te devi stare fermo, mi raccomando, impalato. Il microfono si tiene dritto. Quanto mi piacete, quanto mi piacete. Ma anche voi a casa, ma tutti uno per uno proprio. Ma... Prego, certo. Sara. E allora ci concentriamo, ragazzi. Prepara. Allora, vai, adesso parliamo delle piazze di Foiano. E sì, mi raccomando, voglio sapere aneddoti, storie sconosciute sulle piazze, ok? Sì. Un po' meno, mi raccomando. No, ecco, avete forse studiato sulle storie sconosciute? Sì, perché inventiamo. No, vabbè, ma non è che ti puoi, però. Stiamo scherzando, ci mancherebbe. Certo. Dici qual è la prima piazza di cui dobbiamo parlare. Si può fare allora, una battuta che subito ti voglio prego. Sapere tutto su piazza Cavour. Marzi arriva con affanno e io partirei da Enzino. Sì, le scale mi danno un po' fastidio, dico la verità. Allora, dunque, intanto piazza Cavour, detta così, non ne pochi sanno di cosa si sta parlando, ma in realtà è più famosa come piazza Alta. Che è vero. Ma sempre lì si torna. Esatto, però. Ma perché iniziamo da lì? Perché dà il nome al nostro programma. Perché è da sempre che Radio F ha la sua sede in piazza Alta. Ma via, non solo. Numero. Ma non solo. Piazza Alta. E ora tocca a me. Contro una vocale, Marzi è perso. Su, buono. Ci troviamo. Quali palazzi troviamo in piazza Alta? Allora, abbiamo il bellissimo Palazzo Comunale. Bravo, poi le logge di Vasariana Memoria, che sono dislocate nel Palazzo Granducale, che è stata sede del famosissimo Monte Pio. E anche del Monte di Pietà. Esatto. Tutto Pio. E dell'attualmente della biblioteca. Ma c'è una cosa. Perfetto. Che ha aperto a noi le porte allo spettacolo. Ecco, ora Enzo ve lo dirà sicuramente. Perché Piazza Alta è diventata famosa in tutta Italia quando vi è stato girato un film come location principale. E il film era Albergo Roma, un film di Ugo Chiti, che aveva fra i protagonisti Panariello, Benvenuti e via. E come avrete capito, noi il fatto storico, la storicità del paese, delle piazze, ci importa tantissimo, ma soprattutto siamo in trance da spettacolo. Sì, noi parleremo. Marzi è costantemente in. Ma perché la piazza? Perché la piazza. Ma poi, voi ve lo ricordate quel film, Albergo Roma? Un'immagine che vi è rimasta impressa. Posso fare un'anticipazione? Faremo anche una puntata, penso, su Albergo Roma, perché è uno dei momenti più alti del nostro paese. Perché questa è una trasmissione di accoglienza. Meglio di un albergo. Tra l'altro c'è un aneddoto fantastico. Marcello aveva un'attività di volontariato proprio all'interno della piazza di Piazza Alta. E erano rimaste le insegne. Marzi. Erano rimaste le insegne di Albergo Roma. L'albergo nella finzione era proprio negli uffici dove Marzi prestava queste opere caritatevoli e si trovava di quando in quando con gente. Ovviamente, siccome offriva molte opere caritatevoli, è stato sloggiato, è stato mandato via solo per il periodo del film. Ma molti dopo il film, avendo lasciato l'insegna Albergo Roma, suonavano chiedendogli delle stanze. Perché in effetti quando dei luoghi come quello di Piazza Alta vengono usati come scenografia, nei periodi successivi vengono presi a pellegrinaggio. Che dice? Lo so, stavo ascoltando un'altra cosa. Gli dobbiamo dire di sì, vero? Sì, bravo Marzi, bravo. Piazza Alta, ora voi state un po' degenerando su questa cosa. Ma la Torre Civica? Ne parleremo in un'altra puntata. ritmo, e ritorniamo in studio. Amici. Questa era bella, veramente. Guarda, ti io è piaciuta, mi sarei messa a sedere ora, ma non ho la voglia di ballare. Sì, ma quello è ti è piaciuta, Marzi? Ti è piaciuta? Sì, sai sì, che questo gruppo, sai che questo, senti, sai che questo gruppo ha ben 150 concerti all'attivo con artisti come gli Arctic Monkeys. Ma sai chi sono? I Gossip. Mi sembra che hanno suonato la mia comunione questi. No, perché da noi usano che ha fatto poco tempo fa, tra l'altro, complessi che un pochino ci allietano in queste cerimonie. Vi ho già detto che è bello stare insieme a voi. Ecco perché sei venuto su così, Piazze di Foiano. Allora, torniamo a parlare delle piazze di Foiano. E adesso parleremo di un'altra piazza. Mentre... quindi cambiamo luogo. No, Marzi, cioè, però Sara, no, prego. Marzi, non puoi. Lasciami no, adesso il mio analista ha detto che devo parlare. Ah, è vero, perché i nostri ascoltatori ormai sanno anche che Marzi e il suo analista sono praticamente una cosa sola. Una cosa sola, esatto. Quantomeno il conto corrente è in comune. Sì, sì, esatto, esatto. E quindi cosa ha detto Marzi, il tuo analista? Vabbè, torniamo a noi. No, ha detto che seguo torniamo a noi. Ha detto che seguo poco le parole delle persone con cui parlo. Quindi... Scusa? Allora, che Marzi ha dei problemi, questo penso lo avevate capito. Comunque, ragazzi, su, riconcentriamoci. Passiamo a un'altra piazza. Siamo pronti. Da piazza Cavour scendiamo a piazza Garibaldi. È arrivato prima Marzi. È arrivato prima piazza Marcello. Garibaldi, la so. È tutta perfetto, tua. Perfetto. Vasariana memoria, piazza Garibaldi. Ora vedi, allora, Sara, ti faccio notare una cosa. Enzo ha parlato di piazza Cavour, del comune, cioè è un pochino più storico, no? Invece io sono più legato alla campagna. Pensa certo, che piazza Garibaldi è detta anche il piazzone. Ecco, perché è detta il piazzone? Devi sapere, cara Sara, che il piazzone prima... Ma fermo, non fermo col microfono, fermo! Ragazzi, io vi vorrei far venire qui perché è troppo bello. La lotta di Marcello. Non fermiamolo, non fermiamolo. È allucinante. E pensare che ha fatto radio. No, ma non ha fatto radio. Sì, Dunque, il piazzone era chiamato così perché era tutta una grande piazza libera prima che venisse costruito su questo terreno delle strutture, degli immobili, i giardinetti. Quali giardinetti, Marzi? I giardinetti di piazza Garibaldi. Bravo, no, comunque però io voglio in questo momento farti partire con la fantasia. Torna, Pensa a guardare i pratoni, la Val di Chiana, fino al canale, al canale maestro della Chiana, dal piazzone. Che immagine ti dà? Un'immagine bellissima. Pensa che c'era, nei tempi passati, un'unica strada, che era lo stradone Lazzari, che portava dal piazzone fino giù per la Val di Chiana. T'ascolterei per che ore, bello, guarda. Ma che immagine che immagino suscitato. Ma veramente, guarda. Ma ascolta, siccome abbiamo pubblicato adesso su Facebook, sulla nostra pagina, una foto dove vediamo il mercato del bestiame. Ecco dal piazzone. Enzo mi ha colto nel vivo. Nel mio punto debole, il bestiame. Perfetto. No, il ma bestiame. Lui lo sapeva. Parlaci, lo sapeva che io Marzi. Accaro questo posto. Perché? Certo. Ti spiego. Dimmi perché. Lo stradone Lazzari che partiva dal piazzone, scendeva giù verso il canale maestro d'Italia. A un certo punto c'era un altrettanto spazio ampissimo dove c'era il foro boario e dove c'era il mercato delle bestie, degli animali. Come non perfetto. Si arrivava al mercato delle bestie. No, se qualcuno avesse dei bimbi che ancora non dormono, possono tranquillamente sintonizzarsi e gli racconto la novella delle bestie del foro boario di perfetto, Poiano. E sicuramente i bimbi dormiranno. Musica maestro, God. Le voci che avete appena sentito sono di Cecilia Grandi e Adele Negro, in arte The Love Cats. Sono un duo e sono due giovanissime ragazze di Verona che ci stanno ascoltando, quindi le salutiamo. Ciao a Cecilia e Adele. Ciao simpatiche amiche. Vi aspettiamo qua in studio. Certo, veniteci a trovare qui a Piazzalta. A suonare live, fare unplugged, eh? Può essere, dopo, poi me lo dite che ho detto. Può essere un'idea, vero? Marzi è qui, è rimasto. No, pensavo un duo. Donne, è arrivato l'arrotino. Si affilano coltelli, si riparano cucine, si risolvono equazioni di secondo grado. Vi si fa la fila alla posta per pagare le bollette. Siamo a posto, soprattutto siamo, la fila alla servizio. Posta. Siamo una radio di servizio. Per pagare sì, le bollette, quello ci pensa Marzi. Certo. Lui passa le sue giornate a fare la fila alla posta e a parlare con il conto suo analista. Del mio analista, chiaramente. Certo. È una restituzione no, della refurtiva. No, è il tuo conto che è diventato, certo, quello dell'analista. Ma le Ma piazze allora, di Foiano. Sì, torniamo alle piazze di Foiano. Pulsanti, allora, pulsanti alla mano. La so, prima la è stato so. Veramente bravo, bravo e vi ha descritto Piazza Garibaldi. Fermo, non ha fatto ancora la domanda. Sta parlando col suo simpatico amico. No, è il mio analista. Noi di solito abbiamo degli amici immaginari, Marzi. Ma ce l'ho più di uno. No, lui ce l'ha proprio reale. Lui va all'asilo immaginario. Ne avevo un altro. Perfetto. Era come questo, poi ci siamo arrabbiati e l'ho messo in porchetta. Che brutta scena. Bene, torniamo a noi. Marzi, mi raccomando, su... concentrati, Enzino ci sei? Sì, sono pronto. Ecco, e allora passiamo a un'altra piazza. Vorrei che mi parlaste di Piazza della Collegiata. qui è un po' dura, Guarda, allora consentimi, cara Sara, mi approprio di questo, no, ma fallo di questo argomento. Ma dille due parole, dille due parole. Sì, no, prego. Sì, evito qualche seduta questa sera. Allora, ti devo dire che ovviamente il prezzo di quelle sedute che insomma, risparmi va nel nostro conto corrente. Li metto pro bono per la trasmissione. Sì, perfetto, okay. A posto. Vai, allora, Piazza della Collegiata. Sì. Ma prima voglio dire un'altra cosa. No, Piazza della Collegiata. No, qui i tempi sono stretti, alla radio i tempi sono stretti. Marzi, per favore, allora, parlaci di Piazza della Collegiata. Su, non Piazza divagare, della Collegiata prende il nome dall'omonima chiesa, la Chiesa della Collegiata. E ti dirò che poi dicelo. Parleremo anche in altre tre. Approfondite meglio. Ho capito, ma qui sono tutte altre puntate. Ma ragazzi, questa è una puntata propedeutica. Basta, anche vado via. Quella, dopo propedeutica. Anche quella scorsa era propedeutica. Ma sono tutte scorpi. Propedeutiche. Perfetto. Allora, per Marcello sono terapeutiche, per sì, esempio. No, ma ho scoperto. L'ha capita. No, ho visto a che sorriso fate tutte, quindi io volevo sentirmi accettato e quindi perfetto. Vai. Guarda, nel brevissimo tempo che tu mi concedi ti dico, certo, vai a vedere Piazza della Collegiata, perché Piazza della Collegiata è tra le due cinte di mura del castello di Foiano. Guarda che è preparato, bravo, ma ti potrei anche dire la storia, lo possiamo tenere. La Chiesa della Collegiata sorge sull'antica chiesa di San Leonardo, che è stata distrutta e poi ricostruita. Come ha detto Simone prima, mi sono commosso, guarda. Lui su Foro Boario, io sull'antica. Lo so, stasera ci commuovi, sì. Sta dando il meglio di sé. Per ora non è più distrutta, distrutta. Quando e perché, Marzi? Era stata distrutta perché doveva erigersi sulle sue fondamenta, certo, la Collegiata, che è una delle chiese più grandi della zona. Sì, ma non mi hai risposto. E ti dico che distrutta centro, quando scusa, e ma perché? Ma su per giù nel 1000 no, si parla del 1700 perché sì, era un giovedì, mi ricordo, anche all'epoca era un giovedì. E sempre centro, il giovedì vale Piazza Alta vale su Radio vederla, F, perché c'è un bellissimo pozzo di travertino di cui abbiamo messo una foto sulla nostra pagina Facebook. Ecco, sembra, mi raccomando, seguì, è interattivo telefonata. Questo programma sembra fatta apposta, ma io e Marcello non ci parliamo proprio, cioè non ci vediamo da giovedì nessuno, a giovedì io, nessuno parla con Marzi a parte il suo analista, scusate, e a parte noi il giovedì sera. Saluto alla famiglia di Marzi. Siamo stati incaricati di dal 1976 dare non parlo più con nessuno un'ora d'aria all'analista di Marzi, e quindi ce lo teniamo qui con noi e è così contento. Come stiamo andando, allora, Simone? Aspetta, Bravo. Ottimo. Marzi, hai ancora qualcosa da aggiungere su Piazza dubbio. Della Collegiata? No. No. Sì. Dubbio... No. Se due sono un duo, tre sono un truo. Ma perché? Certamente. Eri andato bene. Certamente. Eri andato bene. Guarda... Bene, allora io passerei oltre... Oltre, io passerei oltre. Passerei oltre, arriviamo in Brasile. Dal Brasile, questo gruppo che si è formato a San Paolo nel 2000. Dici il titolo. Let's make love and listen to death from above. Ma è anche il brasiliano. Non è brasiliano, è portoghese. Siamo a posto, siamo international. A tal proposito. Allora, a tal proposito, visto che siamo international, oltre confine, oltre territorio, non farmi questa faccina triste. No, ascoltavo. Così. No, io volevo salutare un po' di amici che si sono uniti questa sera. Di simpatici amici. Sembra strano, ma anziché diminuire mentre facciamo il programma, aumentano gli amici sulla pagina Facebook. Forse però c'è una spiegazione. Questo è un caso di abduction. Però c'è una spiegazione, perché uno degli amici che si è unito al gruppo è il babbo del regista. È il babbo di Simone, che salutiamo. Ciao Lido. Ciao simpatico amico Lidio. Ciao Lidio, perché ho perso una I. Questo, chiedo scusa. L'ha rubata Marzi, gli serviva per il suo alfabeto. Chiedo scusa dal 1976. Ma come gli viene bene. Come gli viene bene. Riempie è un'altra cosa. No, ma guarda, rifallo. No, da 1976. Senti, come profondo. Volevo anche ricordare un'altra cosa. Anche. È coma profondo. Non ho capito. Io non. Vi voglio... sente. Facciamo una prova cuffia. Marci, ci senti? Vi voglio anche ricordare un'altra novità, che da domani mattina i nostri amici che non hanno potuto sentire questa trasmissione, ma che a cui racconteranno sul chi tardi. Ha ascoltato, la possono evitare anche domani. Chi ha ascoltato stasera domani andrà in giro dicendo ho sentito una trasmissione ieri sera ma bellissima, e l'altro dirà ma come, io come posso fare ad ascoltarla, come può fare Sara? Sulla nostra pagina Facebook dove verrà caricata la puntata. Però mi dice il regista molto sul tardi, perché lui fino alle 11 ha da fare. Ma i registi dormono fino a tardi, notoriamente. Ho capito. Però insomma abbiamo il babbo all'ascolto, via ragazzi. Sì, ma il babbo lo sa. Ma ritorniamo a noi. Ho capito. Veniamo alla prossima domanda. Ritorniamo. Sana. Parliamo di piazze. Torniamo a parlare di piazze, ci spostiamo e allora attenzione, attenzione, voglio sapere di tutto e di più, aneddoti e personaggi di Piazza Licio Nencetti. Ecco, sono stato io direi Enzino. Grazie, sì, Enzino, sa. Perché ora Marci dorme. La sa, Marci, allora, ora la faccia addormenta. Di uno che la sa. Piazza Licio Nencetti, come tutte le piazze finora citate, è più famosa con un altro nome, con la piazza delle scuole. Perché in questa piazza ci sono sia il complesso delle scuole medie, sia quello dell'istituto professionale, sia quello dell'istituto tecnico Laparelli, sezione distaccata di Cortona, che però tanto ci ha dato ma anche tanto ci ha tolto Bene, allora, e no, vi e immaginate questo... allora insomma che via vai di giovani, di incontri, sì, c'è un coacervo di culture in effetti, è lì che ho conosciuto, certo. In quella piazza ho conosciuto Marzi. Oh mio Dio, sì. Infatti è stata chiusa al traffico, transennata per lunghi anni, sì. Allora cioè in era... tutto questo giro di non incontri ma cioè, la struttura proprio... della piazza, cara Sara, che è importantissima. Perché? Unica nel suo genere. Ma che stai dicendo? Ci sono delle logge di Vasariana memoria. Bravo, applauso, bravo, applauso, bravo, bravo. Perché grazie, questa è veramente una logge di Vasariana memoria, sotto le quali troviamo l'entrata della sala comunale Gervasi, tanto per dire qualcosa. Ma era più famosa ancora negli anni passati, 30 anni fa, forse anche più, anzi senza forze, 40, più. 50 anni ma fa, ma io esagererei, guarda. 60 anni tanto fa, i giardinetti, venivano chiamati giardinetti perché anziché esserci dei parcheggi che ci sono adesso, c'erano proprio dei veri e propri giardini. L'unica testimonianza di questi giardini sono gli ultimi due alberi rimasti fra i posti macchina. Altra cosa molto bella di questa piazza, che non c'è più, era il panorama che dava sulla Valdichiana lato Aretino. Aretino, esatto. Che adesso anche questo ci è stato tolto per costruire tutto l'edificio, che è diviso equamente, forse no, fra la scuola, fra l'istituto tecnico e l'istituto professionale. Sì, convergono al centro in puro stile rinascimentale. In realtà, di Vasariana, questa... di Vasariana memoria, anche questo, sì, certo. A parte questa cosa, benissimo. Diciamo che effettivamente per la costruzione di questi edifici, seppur importanti, il paese dal punto di vista storico ha perso un po' un pezzo di veduta sulla Valdichiana Aretina. Marzi, ti piacciono gli scorci paesaggistici, ma vero? Sì, perché sei... quando lo vedo l'orizzonte un po' sei la mente mi si apre. Circondato. Cosa vuoi? Vogliamo un elicottero. Un milione di euro in biglietti da 5 però, ma non quelli nuovi, quelli vecchi. Perché la macchinetta quando vado a prendere i cotton fioc da sporto non me li prende. Direi di soprassedere su questa situazione un po' incresciosa. Sì, sei imbarazzato, lo vedo un po' in imbarazzo. Per imbarazzare Marci. Marci. Non andate via perché tra poco parleremo dell'abbigliamento di Marci. Allora, ha dei colori spenti, grigi. Ma no, però lui è colorato dentro, è colorato dentro. Ma dove? Ma c'ha pure la faccia smorta. Guarda, apri la bocca, facci vedere l'arcobaleno che è in te. No, anche no. così, con questo gruppo, I Temi in Pala, siamo arrivati fin in Australia. Fa quasi rima. Guarda, comunque musica bellissima stasera. Cioè, questo programma sta crescendo in modo esponenziale. Non tanto nella musica, avevate quanto negli interventi, certo, negli interventi, questa, nei contributi e nei conduttori. La devo lasciare. Sì. Stanno arrivando messaggi per cui sono costretta a risalutare alcune persone. Prego, vai, Cecilia, Enzino, Sara, vai. Aspetta che non mi ricordo più. Vabbè, Claudio, ciao a tutti. Tutti. Uno, ciao con simpatici amici. Perfetto, questo saluto collettivo mi sembra ottimo. E allora, che dite? Affrontiamo un'altra piazza di Foiano? Sono pronto con il campanello. Ma le piazze di Foiano, perché? Vai, ancora, non no, ma non possiamo tornare indietro, Marzi, su, dobbiamo andare avanti. Andiamo sempre avanti. Su, vai. Voglio sapere tutto, vai, di Piazza Matteotti. Sì. Oh, ha vinto Marcello. No, ce l'ha... Ah, sì, è vero. Ho vinto io. Dovete sapere che in origine era chiamata anche Piazza del Grano. Ah, ma senti, e perché? Perché? Io, ragazzi, veramente sto facendo una radio di cultura allo stato puro. Lasciateglielo credere, vi prego. Ignoranti, madame. Allo stato brado, mi dicono dalla regia. Simone, pensa alla musica che è. Allora, era detta anche Piazza del Grano, perché sì, devi sapere, caro Enzo, che sotto le logge... Ma non lo dire solo a me, dillo anche a agli tutti altri. Dovete sapere, parlo con te come se parlassi, amici, non lo so, capito, no? Col suo analista. Ok. E ormai lo inviteremo una sera. Tu sapevi, certo, che sotto le logge di Vasariana Memoria, che sono anche in questa piazza, noi siamo pieni, certo, ma proprio Vasari qui ci ha passato annate, veniva in vacanza. Ha Vasari costruito Foiano, proprio ha ridimensionato l'architettura, la struttura di Foiano. Sì, dicevamo. Ecco. Erano ricavati degli incavi, certo, sì, di Vasariana Memoria. Di Vasariana Memoria, ma soprattutto che servivano per le, soprattutto per le famiglie bene di Foiano, sì, perché anche all'epoca ce n'erano. Come parla bene. E c'erano, certo, poi quelli che lavoravano. Tra l'altro famiglie bene di Vasariana Memoria, mi sembra. Vasariana Memoria, parenti di Vasari, ovviamente. Ma Franco, certo, Vasari era uno. Insomma, in questi insomma, insomma, siamo qui. No, e allora andare, io volevamo provare a dire del grano e poi anche di Vasariana Memoria per l'inverno e per poi fare il pane anche durante il periodo dove, perché tu sai benissimo che ci sono dei periodi dell'anno dove il grano non c'è. Ma perché ha dei momenti in cui non si capisce perché ti guardo negli occhi e ti confondo, vedo lo smarrimento. Allora io direi, ok, Piazza Matteotti era? Sì, l'abbiamo era sviscerata, Matteo. Però adesso sono dire, arrivati dei messaggi. Sì, lo so, vogliono sapere tutti. Mi chiedono a tutti che ore di Marzi. Mi chiedono, ma questo Marzi com'è? Ma com'è perché vestito? Allora, possiamo mettere una foto? È pubblico immediatamente. È imbarazzante Marzi. E ci giocheremo tutti i nostri amici. Un sulla dettaglio pagina di Marzi. L'ho appena pubblicato sulla pagina. Un dettaglio, ce l'abbiamo. Allora, potete vedere dall'immagine che dal dettaglio. Ah, no, eccolo, appena pubblicato. La tristezza che regna in Marzi. Allora, dunque, potrebbe sembrare una felpa anche di buona fattura, visto anche lo stemma. Per la precisione, ciniglia. Ovviamente taroccato. Ecco, ciniglia. Ma il problema è il materiale, è ciniglia. Io l'ultima. Sì. L'ultimo indumento di ciniglia che ho messo ieri era il 1983. Pensavo e 76. Mi venivano. Dal 1983 e mi venivano tutte le bolle sul collo, perché proprio faceva allergia e pensavo l'avessero, diciamo, vietata come materiale, l'avessero vietata. No, Marzi ha raccolto tutto. Quello che hanno vietato l'ha raccolto Marzi. No, non è un organismo geneticamente modificato. In realtà non è ciniglia. Se volete fare una prova, possiamo provare a dare fuoco e vediamo. Sì, proviamo. Con me dentro, perché proviamo almeno. Sì. Che tristezza, certo. Sono le 22. Sì, il colore, che come lo definirei? Guarda, è un Enzino. C'è la Marcuzzi, no, per questo. Ma io direi che se uno vuole, sì, può andare veramente sulla pagina Facebook e vedere un po' il colore, perché tanto è indescrivibile. E può anche evitare di andare. Sì, ma poi c'è questo inserto grigio topo, molto triste. Che da notare che la foto che abbiamo fatto c'è un collo che sembra veramente lungo, ma in quello realtà di un toro. Soprattutto. Vabbè, ma non parliamo più di questo ragazzo che tanti problemi ha avuto e continua ad averne. Continua ad avere anche il suo analista dopo che l'ha preso in culo. La tariffa che paga mensilmente, thank you. tutti bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Direi che questo è un brano conosciuto, Sara, vero Marzi? Sara, se t'è mi piaciuto? Permetti, consentimi. Sì. Non sono solito. Simone, hai scelto una bellissima canzone. Bravo, l'hai scelta te. No, sì, ha sbagliato. Il problema ha sbagliato, è che non sbagliato. Lo vuol dire. Brutto, ha sbagliato perché il brano che avete sentito era Le Vent nous portera. E invece Simone voleva mettere Le Grand Incendie. Ma parla ma inglese, francese, così. Portoghese, foianese. Stiamo arrivando alla fine con la morte, veramente, guarda nel cuore. No, ho capito. Abbiamo iniziato con i tre allegri ragazzi morti. E ora mi dici che c'è la morte, ma perché morte io vi amo tutti, ma qui a casa, fuori. Love, ma se vuoi, certo, ti lasciamo qui tranquillamente. Prima, a di, chiudere, a da prima di chiudere, vi annuncio, sì, che metteremo un ulteriore dettaglio di Marzi. Di Marzi. Imperdibile alla scoperta di Marzi. E allora, antropologico. Guarda, ti ha concesso di distrarti per un attimo, perché mentre te metti là il dettaglio di Marzi, Marzi fa una... No, non... Non lo so, io ti ascolto. È bellissimo, è arrivata in fondo alla frase, ha espresso il concetto. Poi ho detto no. Succede anche a me con l'analista, guarda. Sempre, l'analista scappa nel frattempo. Però ragazzi, in pochi secondi, mi fate una carrellata delle piazze che sono rimaste di Foiano? Iniziate, Marcello, iniziate, Marzi, Marzi. Ce ne sarebbero tante e ognuna avrebbe una storia da approfondire con tantissime puntate. Però il tempo stringe, il tempo è tiranno. Le altre piazze del nostro paese sono Piazza Mazzini, Piazza Fra Benedetto, che tra l'altro si trova ai piedi della scalinata della Torre Civica, di cui parleremo in una prossima trasmissione. E vi dico che sembra che ci sia in programma, in progetto, di restituire il pozzo che tanti anni fa fu tolta questa piazza. Ma a proposito di pozzo, caro il mio Marzi, che stiamo divagando. Caro il mio Marzi, a proposito di pozzo, vorrei parlare anche di una piazza della nostra amata frazione di Pozzo della Chiana, la piazza che più famosa di Pozzo, che è Piazza Padella. Piazza Padella. Allora diciamo qualcosa in più di Piazza di Pozzo. Piazza Padella. Salutiamo gli amici del Pozzo. Un caro saluto che dal 1976 ascoltano gli amici pozzesi. Ecco, Piazza Padella non è per niente preparata questa trasmissione, perché mi ricordo a memoria dei versi. Questo dimostra, cioè, proprio a dimostrazione del fatto di quanto fosse importante Piazza La ricordi Padella. Dalle scuole elementari, sì. la verità. E diceva così: tra polli e galline, schiamazzi di bimbi, in Piazza Padella scorre pulsante la vita di tutti i giorni. Ah, vecchio borgo animato da voci amiche, quanti ricordi! E che vanta nostalgia di quegli anni 50, dell'Amelia sulle scale, di Emilio con quella schiera di figlioli, della Beppina, della Rosa con le sue filastrocche, e via. L'albero a cui tendevi, la pargoletta a mano. No. Tra l'altro abbiamo pubblicato una foto di Piazza Padella degli anni 50 . E ringraziamo il sito dei Photo Club del Pozzo, da cui abbiamo attinto questa foto. Adesso li salutiamo anche loro. Salutiamo anche tutti loro. Noi siamo qui, una radio di saluti. Siamo tutti amici. Radio saluto. No, ma noi ci teniamo che tutti i nostri radioascoltatori siano in salute, quindi li salutiamo. Ecco, dopo questo dopo questo pubblichiamo in questo momento sulla pagina di Facebook, che vi invitiamo a visitare, la foto di un ulteriore dettaglio di Marzi. Una cosa imperdibile, perché a un certo punto faremo una gara, un puzzle, lo ricostruiremo un po' come ha fatto il suo analista. Il dettaglio di Marzi. Bene. Che facciamo? Parliamo ancora lui? Di Marzi. Si diverte solo lui. Simone, l'hai capita la battuta? Per quanto riguarda Marzi, basta, musica. All the time we despise the moment we have to find another. Best Regards. Questo è il titolo di questo brano che purtroppo, ahimè, ci porta ai saluti. Potrebbe diventare una radio di compromesso. Già, come di compromesso? Simone che mette musica che piace un pochino. Bravo Simone, è un nostro regista allora, preferito. Guarda. Marzi scuoteva la testa, ballettava con la testa. Sì, questo lo fa. Questo vuol dire che è compiacimento. È compiacimento. Sì. Perfetto. E allora, ragazzi, è arrivato il momento dei saluti. Baci, abbracci a tutti voi. Noi intanto vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, stessa ora, 22. È stato bello stare con voi e già ci mancate. È stato fantastico. E siccome magari se vi manchiamo già anche noi, vi ricordo che domattina, oh mio Dio, perfetto, domattina potrete, in tarda mattinata, quando il nostro regista si sarà svegliato, potrete riascoltare questa bellissima puntata, simpatici amici. Se vi è piaciuta ditelo agli amici. Se non vi è piaciuta, non importa. Non esternate un vostro giudizio poco profondo. Dobbiamo salutare tutti. Dobbiamo quanti salutare. Abbiamo sforato, ma d'altronde un'ora è poca, perché l'amore che noi riversiamo e siamo stretti. Allora andiamo con la sigla. Sale, ciao, sale. A giovedì. A giovedì. Ciao. Salutiamo. Ciao. Dal 1976. Avete ascoltato Piazzalta da Radio F, un programma di e con Sara, Marzi e Zino, alla conduzione tecnica Simone.